Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Finito l'incontro Fiat governo sindacati a Torino sul futuro di Mirafiori, il ministro Sacconi dice incontro utile. La riforma del codice della strada alla via definitivo, tolleranza zero per chi guida ubriaco, sanzioni pesanti per chi trucca le minicar. Un bimbo di un anno annega in una piscinetta in giardino, 4 i bambini morti in piscina nel solo mese di luglio. Accordo, si ha YouTube da internet, nuove entrate per i cantanti. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Riprendiamo collegandoci di nuovo con Torino perché si è concluso il tavolo governo Fiat sindacati sul futuro di Mirafiori. Allora sentiamo le ultime dal nostro Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Si è concluso intorno alle 12.15 l'incontro sul tavolo Fiat, confronto tra le istituzioni, il governo, i sindacati e l'azienda del Lingotto. Alla fine di questo incontro una conferenza stampa del ministro Sacconi e dei vertici delle istituzioni locali ha definito l'incontro utile e positivo. Utile e positivo perché a questo incontro ne seguiranno altri, in particolare ci sono previsti degli incontri bilaterali per realizzare, dare a piena attuazione al piano Fabbrica Italia stabilimento per stabilimento. Ovviamente qui si tratta di capire se a questi incontri parteciperanno tutti i sindacati. In questo momento tra l'altro sono iniziate le conferenze stampa dei sindacati. Poco fa il segretario della CISL Bonanni ha ribadito che l'investimento di Fiat è troppo importante, per cui il sindacato, il suo sindacato, la CISL e quindi la FIM ci saranno purché, e sono anche disposti e pronti a dare garanzie purché siano queste garanzie siano poggiate su regole già definite. Nuove discussioni, ha detto, tassativamente dovranno essere nelle regole contrattuali già definite. Sentiremo che cosa dirà Epifani. Va detto che il governo da parte sua col ministro Sacconi ha ribadito la disponibilità a completare la normativa sulla detassazione del salario incrementale che venisse prodotto sulla base di un accordo. Questo per ora è tutto da Torino. E noi ti ringraziamo Paolo Piacenza, più tardi con tutti gli aggiornamenti, perché appunto con le conferenze stampa eccetera ne sapremo di più. Approvato intanto in via definitiva al Senato il nuovo codice della strada, anche questa è una notizia importante, tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza, ad esempio i minori scoperti ubriachi alla guida del motorino potranno conseguire la patente solo a 19 anni, quindi un anno più tardi degli altri. Soddisfazione da parte dell'ACI, sentiamo al microfono di Nicola Cardo il presidente Enrico Gelpi. Questa tolleranza zero, soprattutto nei confronti dei neopatentati per i primi 3 anni dell'ottenimento della patente e per i conducenti professionali, credo che sia un punto molto qualificante, cioè chi guida non deve assolutamente bere. Questo è il primo grande risultato di questo disegno di legge. E l'altro è che tutta la parte che riguarda per esempio le cosiddette minicar, che tanto l'allarme sociale hanno procurato appunto in questi mesi. Intanto quindi l'obbligo della cintura di sicurezza e del patentino. Un patentino che entrerà in vigore a partire da gennaio, sia per le minicar anche per i ciclomotori. Anche questo per esempio è una delle nostre proposte, così come quella della tolleranza zero, quindi anche noi come ACI siamo molto soddisfatti che siano state poi recepite. Così come è stato recepito il principio di rendere un po' più seri gli esami, cioè i corsi di recupero della patente. E oggi si può ottenere il recupero dei punti semplicemente iscrivendosi a un corso. E noi abbiamo chiesto che invece venissero resi un po' più seri, quindi con un esame finale, soprattutto nel caso in cui la perdita di punti fosse conseguente a incidenti mortali o molto gravi. L'inchiesta su una nuova P2 con il nuovo indagato, il sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo. Oggi alle 15 il coordinatore del PDL Denis Verdini terrà una conferenza stampa. Ieri lo stesso Verdini è stato ascoltato per ben 9 ore dai PM, a cui avrebbe indicato il ruolo chiave del senatore Dell'Utri. E il PM di Milano, Angelo Fusco, ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione e 6.000 euro di multa nei confronti dell'ex ministro Aldo Brancher, imputato in un filone dell'inchiesta sulla tentata scalata ad Antonveneta. Siamo alla cronaca, un bimbo di 1 anno è annegato in una piccola piscina nel giardino della sua abitazione a Gallicano, alle porte di Roma. Sale così a 4 il numero dei bambini morti in piscina nel solo mese di luglio. È finita invece per il momento la brutta avventura della bimba di 5 anni rapita dai suoi stessi genitori. Erano in Svizzera insieme alla loro bambina Anna Giulia di 5 anni, prelevata 2 settimane fa dalla casa vacanza a cui era stata affidata dai servizi sociali. Le forze dell'ordine li hanno riportati in Italia. La bimba ora è di nuovo dalle suore del cenacolo fiorentino di Marina di Massa e i genitori indagati per la sua sottrazione. I due, Massimiliano Camparini e Gilda Fontana di Reggio Emilia, alla separazione forzata dalla loro figlioletta non si erano mai rassegnati. Già il 5 marzo scorso, durante un incontro protetto, erano riusciti a portar via Anna Giulia raggiungendo la Slovenia, ma 4 giorni dopo la squadra mobile li aveva rintracciati. Incatenati al Colosseo hanno raccontato la loro vicenda a chi l'ha visto e poi scritto un appello al presidente Napolitano. Nulla ottenendo, il 16 luglio scorso hanno di nuovo sottratto la piccola ai suoi tutori. L'avvocato difensore della coppia, Francesco Miraglia, parla di mala giustizia. All'origine dell'allontanamento della bambina dice non ci sono problemi di tossicodipendenza, ma presunte condizioni fatiscenti dell'alloggio. La bimba, racconta il legale, al momento del distacco dei genitori ha avuto una reazione bruttissima e la madre si è sentita male. In Svizzera, conclude l'avvocato, hanno vissuto i momenti più belli della loro vita. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E qui invece parliamo di violenza sulle donne. È in aumento la violenza delle donne ad opera di ex mariti o fidanzati e la metà delle denunce rientra nel reato di stalking. Minacce, pedinamenti, appostamenti e telefonate sono i comportamenti più frequenti. Le donne però oggi sono più pronte a spezzare il cerchio della violenza. Un segnale positivo è l'aumento delle donne coniugate che optano per la separazione dei beni. Ci spiega il perché Maria Gabriella Moscatelli, presidente di Telefono Rosa. Il marito non ha più quell'arma, è tutto mio. Devo decidere io come e quando tu te ne vai. Quindi anche questa forma che sta leggermente passando, perché se noi leggiamo i dati c'è una leggera superiorità rispetto agli anni passati, appunto, della scelta della divisione dei beni, dà la consapevolezza che forse c'è una maturazione, almeno noi ce lo auguriamo che sia uno dei segni positivi. La maggior parte delle violenze, 8 su 10, continuano a consumarsi tra le mura domestiche, soprattutto da parte dei mariti. Tutte le donne di qualsiasi provenienza o estrazione sociale sono esposte al rischio di violenza. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Attesa per oggi in Italia la salma di Giulia Minola, la ragazza morta sabato scorso durante la Love Parade a Duisburg. Sarà trasferita a Brescia, dove sarà allestita la camera ardente. Venerdì i funerali. Sono intanto salite a 21 le vittime della calca. L'aggiornamento ora sul disastro aereo pakistano: a bordo non c'erano italiani. Continua a regnare la più completa confusione sulle operazioni di soccorso lanciate dalle autorità pakistane dopo lo schianto questa mattina di un Airbus A321 della compagnia AirBlue sulle colline che costeggiano Islamabad. In mattinata il ministro degli interni Rehman Malik aveva sorprendentemente parlato di 5 sopravvissuti. Secondo altre fonti, i feriti sarebbero stati 7 oppure 8. Ma i primi soccorritori giunti sul luogo dello schianto hanno dichiarato poco fa di non avere trovato feriti, ma solo rottami fumanti e frammenti di corpi. Era partito alle 7.30 locali della città di Karachi, nel sud del paese, e al momento dello schianto aveva iniziato la sua discesa verso l'aeroporto di Islamabad. Le cause dell'incidente per il momento sono ancora misteriose, anche se le cattive condizioni meteo con forti piogge monsoniche sulla capitale potrebbero aver giocato un ruolo determinante. Le operazioni di soccorso stanno procedendo con estrema lentezza, soprattutto perché il luogo dove l'aereo si è schiantato è un pendio scosceso, boscoso e privo di vie di comunicazione sulle pendici delle Margalla Hills. AirBlue è la principale compagnia aerea privata pakistana e quello di oggi è il suo primo incidente in 6 anni di servizio. Marco Masciaga, GR24, Il Sole 24 Ore, New Delhi. Approvato negli Stati Uniti la proposta di finanziamento supplementare della guerra in Afghanistan dopo che il Pentagono ha lamentato una carenza di fondi per sostenere i rinforzi richiesti dal presidente Obama. Il voto, 2 giorni dopo la pubblicazione dei 92.000 documenti segreti che svelano i fallimenti della strategia occidentale nella guerra a Kabul. Di questa pubblicazione, avvenuta grazie al sito di controinformazione wikileaks.org, abbiamo parlato questa mattina nel nostro sondaggio. Vi chiedevamo se secondo voi sia stato giusto pubblicare documenti segreti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei militari impegnati in guerra. Ebbene, il 66% di voi ha risposto che sì, è giusto. A Roma, in questi giorni, la conferenza degli ambasciatori. Sentiamo come sta andando dalla nostra Cristina Balotelli. Sì, si è aperta intanto questa mattina a Roma la prima edizione del Farnesina Foreign Policy Forum, evento parallelo ma separato dalla conferenza degli ambasciatori che, come avete ricordato da studio, si concluderà oggi. In pratica si tratta di un'occasione per aprire una discussione pubblica sui principali temi della politica internazionale. Il forum è cominciato con una tavola rotonda sull'Europa e sul nuovo europessimismo accentuato dalla crisi economica ed è proseguito con un'analisi dei rapporti tra Europa e Cina, uno dei nuovi attori della politica e dell'economia internazionali. L'ambasciatore cinese in Italia, Wei Ding, ha detto che la Repubblica Popolare Cinese ha molta importanza a intensificare i rapporti con Europa e Italia. L'Italia perché? Perché ha giocato un ruolo importante nell'avvicinare la Cina all'Europa. Attualmente l'Unione Europea è il più importante partner commerciale della Cina. L'interscambio tra l'Europa e la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di dollari. E il dato del periodo gennaio-aprile 2010 è in aumento, ha segnato un più 34,6%. In futuro quindi i rapporti tra Cina e Unione Europea, che è anche il quarto più grande investitore estero in Cina, diventeranno sempre più importanti in uno scenario globale in continua evoluzione. L'Italia 40 anni fa aveva con la Cina un interscambio annuale di 120 milioni di dollari che nel 2009 è salito a 30 miliardi di dollari, quindi come potete capire un dato in grande crescita e che mostra come negli anni l'interscambio si sia moltiplicato. L'Italia dunque può ritagliarsi un ruolo di ponte tra Cina ed Europa perché quest'ultima è ancora un grande sconosciuto in Cina, ha detto l'ambasciatore uscente a Pechino Riccardo Sessa. Proprio venerdì il Consiglio dei Ministri ha infatti nominato il nuovo ambasciatore in Cina, Attilio Massimo Iannucci, già inviato speciale della ministro Frattini per Afghanistan e Pakistan. Infine sta per cominciare in questo momento la conferenza stampa tra il ministro degli esteri Frattini e l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. E da Roma è tutto. Grazie, grazie Cristina Balotelli. L'osservatorio. Mi dispiace signora, ma è troppo tardi. No, per favore, io devo assolutamente andare lassù. Stiamo chiudendo, basta per stasera. C'è qualcuno che avrei dovuto incontrare, probabilmente non ci sarà, ma se non vado a vedere me lo chiederò per tutta la vita. Cary Grant, vero? Conosci quel film? Uno dei preferiti di mia moglie. In cima all'Empire State Building sono state girate alcune delle scene più romantiche della storia del cinema, come il finale di Insonnia d'amore, ma il grattacielo Art Deco, simbolo di New York, ora farà innamorare anche l'ambiente. I proprietari dello storico palazzo annunciano investimenti per 13 milioni di dollari, obiettivo ridurre il consumo energetico del 40%. In 15 anni si otterrà lo stesso risultato che si avrebbe se fossero tolte dalla strada 20.000 vetture. Accordo fatto anche in Italia fra la società che tutela i diritti degli autori, la SIAE, e la più popolare piattaforma per i video su internet, YouTube. Accordi analoghi erano già stati firmati in altri 5 paesi europei, fra cui Gran Bretagna e Spagna. Da regno dei video amatoriali spesso accompagnati da musiche pirata, piattaforma che garantisce ad autori e case discografiche crescenti entrate. Nel 2009, tanto per fare un esempio, le major del disco hanno incassato da YouTube, solo in Italia, quasi 2 milioni di euro grazie all'accordo globale già stipulato anni fa con la casa madre negli Stati Uniti. Ora anche per gli autori, cioè la SIAE, arriva un accordo locale sull'uso della musica in streaming video, in modo che autori, compositori ed editori vengano ricompensati ad ogni utilizzo della loro musica. La licenza ha una durata di 3 anni fino al 31 dicembre 2012 e si ipotizza che possa generare alcuni millesimi di euro per ogni click, ma su questo punto non entra il comunicato congiunto tra SIAE e Google, che dal 2006 è proprietario di YouTube. In ogni caso la notizia è positiva sia per i soliti noti, ma anche per le band e i cantautori emergenti, che possono così guardare ad internet non solo come al regno della pirateria. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo notiziario, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.